siete qua già. Prova a indovinare. Tu l'ho occupato? No, non l'ho occupato, ma ci avevo battosti da tutte le parti e ce ne siamo venuti di qua. Così almeno sono più lontano. Ho capito. Ciao, tu, avanti per te. Buonasera Massimiliano, buongiorno, buonasera, siamo già di sera, siamo arrivati. Allora, no, mi sono fatto gli impatti con l'accetto. Cosa ha detto? Allora, caccia la febbre Massimiliano. Capparoccia, un po' di febbre, raffreddore, mal di reni, sono tutto toccato, non mi posso muovere. Invece a Marcolino stanotte abbiamo lottato, di salita di nuovo a 39,4 la febbre. Di salita di nuovo io volevo portare in pediatria, mia moglie ha detto aspetta che vediamo un po' con la tachipirina di nuovo. Mi ho messo la tachipirina, poi per un po' si è passata, gli ho fatto anche l'impacchi d'accento, ma non c'era verso. Bianco un attimo dai che scendo da... Molte arance, mandarini, clementini, questa roba qua non mi piace un bel. Lei mangia confusione, quindi penso che sia anche questo, che la vitamina C in modo naturale, senza pigliare pasticci, ti fa bene. Io addirittura la davo anche, io avevo le cavie peruviane, no? E gli davo la vitamina C in pasticci, gliela mettevo dentro il coso dell'acqua, si scioglievano, se erano effervescenti queste pasticche. Si scioglievano e bevevano, c'era la parancione, perché quando bevevano c'avevano anche la vitamina. Sì, io a volte me ne compro anche in farmacia le vitamine. Per noi che fumiamo, lo sai cosa vuol dire? Ogni tanto prendersi un po' di vitamine. Fanno bene, capito? Poi io che non torno a pranzo a casa quando vado a lavorare, mangi sempre le solite cose, magari non mangio frutta e roba del genere, capito? Quindi un po' di vitamine le perdi. E ogni tanto in farmacia me le prendo, me le metto in mezzo all'acqua, me le sciolgo e me le bevo. Poi devi vincere. No, vitamina proprio, senza essere VVC. La VVC è un medicinale. La vitamina, proprio vitamina C prendo. Certo, prendi con le integratori e c'hanno tutte le vitamine. Io prendevo quelle di Herbalife e ti dico una cosa, stavo meglio. Per dire, mangiando il pesce c'ha il coso, come si chiama il pesce? Il fosforo, roba del genere. E praticamente noi ne abbiamo bisogno di mangiarne chili e chili per ottenere il tanto che serve per il nostro corpo. Però io le prendevo queste cose dell'Herbalife, questa qui, poi prendevo la mattina presto l'aloe, che è medicamentoso per tutto quanto, l'aloe. E bevevo questa aloe e il tè, non so come mi sentivo leggero, proprio qua. Solo che mi sono un po' stufato, se no guarda, facevano un bel bello. Già lo so, purtroppo, devi fa. Quindi stai prendendo colpi? 40? L'omega 3, volevo dire, adesso mi veniva. L'omega 3 c'ha il pesce. Per tenere quello che siamo non so come dobbiamo mangiare chili e chili di pesce al giorno. Allora siccome non ne mangiamo chili e chili, se prendi una di queste pastiglie ogni giorno ti fa benissimo. Allora, è un casino. Ascolta, quindi stanotte salite su? Stanotte non so cosa decide Piero. Intanto domani è festa, se no lavora. Io lo sai che sono di scappare. Domani c'è una bella cosa, Massimiliano. All'ippodromo Pinna ci sono quelli che fanno volare gli aerei, dai, gli aeromobilisti, da tutta la Sardegna. Ma di mattina? Dalle 8:30 fino a luna. Quello che sarebbe stato bello andare a vederlo. Oh, lo sai che ho visto un elicottero che c'ha coso, Gavino. Si rovede una cosa impressionante. Ma se non è bello, cazzo, come schiaccia il pulsantino, cazzo, si solleva in aria questa cosa. L'altro giorno l'ha fatto alzare lì dentro il laboratorio. Ma è quello che vendono i cinesi oppure di quelli proprio professionali? No, quello che vende i cinesi, è fatto tutto in polistirolo. Capito? È leggero leggero. E c'ha come l'elicottero normale, c'ha doppia, come si dice, le pale di davanti, no, quelle che ci sono dell'elicottero, sopra ne hanno altre due e poi dietro c'ha il timone, sempre con l'erica. Cazzo, ma tu lo devi vedere, ma è allucinante. Io l'ho visto, l'ho avuto anche quello lì. L'ho avuto e sono andato a provarlo, prima di darlo a Marco sono andato a provarlo dove c'è il cisolo, che ci sono i campi, no, i campi che sono chiusi sopra dalla rete. L'ho fatto volare per metà, stava volando tranquillo, c'era tutta la gente che stava guardando. Mi sono andato a prendere il pulsante per farlo calare e invece non ha funzionato. Non ha funzionato il pulsante, si è rovinato, si è fatto sapere. Oh, fate il conto che io ho battimenti qua, fate il conto, non lo comprendi. Attenzione, capo! chiaro, chiaro, chiaro. Adesso va molto meglio, c'è un computer. E se va meglio, sì, sì. Ma si sentiva bene anche poco fa, dai. Va, dai. Si sentiva bene anche poco fa, non c'è problema. Sure. vicino a Tavino non è 41, si interessa qualcuno, quelli con i boccioni. Quanto è? Mi pare 300. No, è 4. 4 di partenza. Vabbè, 400, buono, non so. Però le valvole non sono al massimo e sono all'80%. Ti dà 130, 140. Ogni volta mi colpisce l'occhio. È un casino, non è graffiato, è anche brutto. ferro. Ma non è baracchino, il baracchino non è graffiato, no? Per la mascherina quel bordino che c'ha attorno, cromato, la scalfito. Facciamo un patto, tutti i peli, quella di mezzo ti peglio l'altra. Vediamo un po' se va meglio la mia o la tua, la proposta. No, piace proprio. Oh, questi periodi non la sto usando, ma quando funziona, funziona. Sì, già penso che la preso anche questi periodi, anche che non è una pisciata. Sono malissimo però, e intanto cosa ti ne fa a me che c'ho un pezzo di carne, non c'è? Pezzo di carne mossa. Allora, non ci si vede, carne pisciata. Però, fa l'uovo. Per quello è vero. Chiama, chiama. Dai ragazzi, di me, io vado a farmi la bella caffeina adesso. Che la mia non mi ha chiamato dentro, che è pronto. Ce la riascoltiamo dopo se coincide. Per il momento vi saluto, passo il corretti, ciao Pier Paolo, la vera, ciao Radio Bombo, ciao Gianni Do Pirro, e buon order, passa QRT, gada gada. La bulldozer, buona caffeina, sentiamo, avanti a noi. Ciao, sono Antonio Bulldozer, noi ce la sentiamo tutta la prossima. Che mi fai i soldi, che sono capace al buco. Ma forse non so così che rende, no? E forse come sto avvicinando, mi dai? Ma partiti sì. Caffa, siamo già partiti, già. Ma stavolta ci vedessimo, o no? Ancora non lo sappiamo, dai. Ti facciamo sapere tutto stasera. Ma no, perché non sta che non ci vediamo? No, non lo sappiamo, è per il lavoro, nella stanchezza, e oggi mi sembra una giornata un po' piena. Vabbè, fatevi sapere. Pagata, interrogate. Ma Roger, già, senz'altro, non ci sono problemi, dai. E adesso dove siete? Dove siete? Guarda, siamo qua a chilometro. Stanotte già è andata bene, ho dormito poco anch'io, però io già mi riattivo subito, che se sono stanco però poi già mi metto di nuovo fatica. Capa, pensavo stanco sì adesso, no già, già passo la stanchezza, e purtroppo con quello che c'è, ma dai, piano piano già si rimette tutto a posto, Infatti. Ma oggi non ho dormito quasi nulla, stanotte lo stesso, ma c'è Dio per il bambino che corre e adesso una stagiosa. Capo Roger, già lo capisco, poi anche è stato un pochettino male il bambino, già, meno male che gli è passato. Vieni. Hai la faccia ruia ruia e gli occhi in gloria, poverino. Capa, dai, stamattina c'è un po' meglio, vero? Correndo, avanti, tranquillo adesso, non è come ieri, no? E ieri era molto giù. Ma era male. Paga. La febbre ti butta giù, Poi quando è così alta, la tontura è già brucia. Lo so. Comunque lo spettacolo delle moto lo sapeva anche quella di fronte che c'era, invece l'hanno rimandato. C'era la stessa cosa invece pure, sì, ma lo sapeva anche quella di fronte. montare a scala, infatti gliel'ha detto a Ria, la dobbiamo un attimo, cioè, lei è andata a vedere quella montata, non so per bancarlo dove va andare, e poi non so se ci sia andato o no, però o c'era un orario, ma non penso che fossimo in ritardo, perché poi si fermano lì e lasciano l'esposizione fino a luna per dire da piccola. Sì, sono ancora in momento, è una manifestazione, non l'hanno fatta. Macchine ne accelerano due, ma di solito la domenica le fanno girare con le macchine. L'altra domenica abbiamo visto la topolina, va fatta bene, una topolina, topolina, da luci, da bella perfetta. Vecchia di latta, proprio io me le ricordo con le macchine lì, quando erano nuove proprio. Magari da ragazzo che l'aveva ambientata. C'era il GT 1003 Junior, quella lì era ancora più vecchia del CT. Quella lì mi sembra che era 1500 o 1600 a quanto ho visto. 1600 mi sembra, ma io non ci sono bugico, magari era 1500. Comunque sono macchine che rubano, che quelle di anche adesso capisce quella macchina lì. Sono macchine un bel spinto, quelle a farlo messo sempre sotto, poi c'è la Giulia Diva, la Giulia Super, se vuoi vedere l'Alfa Romeo erano miti, che proprio quelle dell'Alfa Romeo erano belle macchine, anche quando erano di vecchia data, c'era l'Alfa 75 che è bella ancora adesso. Delle belle macchine, non ha mai guardato il consumo, non le ha fatte mai con un consumo parsimonioso, ma diciamo che sono state sempre macchine spinte proprio per gente che ama la brezza della raccolta della drubbina. Tutte le cose sono migliorate adesso, però pensi che siamo migliori, poi sono peggiori di prassi. Guarda i contatori, guarda altre cose, che i baracchini li hanno fatti peggio adesso che prima, perché gli splatter in questi di adesso di miti, quelli che erano in prima non ti davi splatter, sono anche baricati. Quindi tante cose sembrano migliori, però la roba meccanica, la roba grossolana è la migliore. La maggior parte sarà uno su mille. Uno su mille. Anche il 48 plus che hai tu, è selettivo come apparecchio. Sì, quello sì. Quello non me l'aspettavo manco io, l'ho scoperto da poco che era un selettivo. Perché non me l'aspetto io, sento con quello lì, non lo sento a nessuno. E lo volevo mettere in cameretta e poi mia moglie non ha voluto, volevo farci del cavo dalla parte della facciata e metterlo in cameretta, e meno male che non ha voluto, perché sennò col casino del computer, quello che vuole studiare, l'altro che vuole fare, mi avrebbero buttato sempre fuori. Siamo qua in via Roma, c'è lei tra un pochino. casino. Basta che non passa un tram, una cosa, blocca del bucante. L'altro giorno c'era l'ambulanza, con la sirena, Non riuscivo a passare perché c'era un furgone in mezzo alle scatole. Davanti alla macchina che non parcheggia. Se non passa l'ambulanza non riesce a passare. E dovuto a te, non te lo faccio a piedi. Strada così, se uno deve scaricare, come fa con quei parcheggi? Devono fare una zona di scarico, non pensare sulla linea e fare solo parcheggi. Una zona di carico e scarico ci vuole per chi deve lavorare, no? Ma no, se vuoi travagliare mi pagare. Buono. E una volta lo devi scartare, mi sono dovuto parcheggiare per scaricare i mobili di Roma. Cosa devi fare? Ci devi pagare il parcheggio, poi pigliare un carrello, piano piano, sta a girare un carrello. Ma ci sono un sacco di spese per quella aspettativa che vogliamo fare. E mai da una parte sbagliata, perché se cominci a fare zona ZTL qua, zona ZTL là, la gente dove parcheggia, dove va, come va, e se ne va via la città, se ne va tutta quanta città marcata, underground, chi dà, e in città non ci va più a comprare, fa gli sconti di tutti. Però signor sindaco. Deve essere che non ci ha pensato quando ha fatto le cose questa volta. Di solito io lo avrei dato per quello che ha fatto, però questa volta qua forse ci doveva pensare lì. Dai, già, noi siamo già arrivati, dai, ci sentiamo più tardi. Ehi, Antula, ciao, buon lavoro, ciao per tanto.